Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, appuntamento in due parti oggi. Nella seconda ci soffermeremo ovviamente sul mercato, tentando una valutazione su chi ha fatto meglio e chi peggio, in particolare nelle ultime ore di questo mercato. Prima però una storia che vi inviterei ad ascoltare con attenzione. Dunque, il più bel gol italiano del mese d'agosto, complice anche il fatto che la Serie A ha fatto la falsa partenza che sappiamo, il più bel gol italiano d'agosto è un destro al volo da fuori area su calcio d'angolo disegnato da Marcolini, segnato giovedì scorso da Omar Milanetto a Marassi sotto la gradinata nord, quella genovana. Un gol segnato alla Sampdoria. Peccato che non fosse un derby, uno dei tanti vinti da Milanetto negli ultimi anni, perché nel frattempo Omar ha lasciato il Zena e via Lugano è arrivato a Padova. È una storia lunga che proverò a riassumere in sintesi ed è una storia emblematica delle condizioni miserabili in cui il calcio italiano è ridotto. Se poi ci saranno imprecisioni, io credo che a correggermi sarà lo stesso Milanetto. È vero Omar? Sì, ciao, buongiorno. Ci pensi tu se le racconto troppo grosse? Ci proviamo. Senti, io la prendo di lontano perché parte, a parer mio almeno, tutto parte il 17 aprile, la vigilia di un Genoa-Brescia. Il Genoa è salvo, non ha più speranze reali, concrete di partecipazione europea. La Sampdoria è all'inizio di quella caduta libera che la porterà poi in Serie B. Allora c'è un tam-tam della tifoseria genoana che comincia a segnalare con intensità crescente il gradimento per una sconfitta della propria squadra, onde regalare punti a una diretta concorrente del Doria. Quella partita finisce 3-0 per il Genoa e una settimana più tardi, altro confronto con un'altra squadra interessata alla classifica della Sampdoria in casa, 4-2 al Lecce in doppia rimonta, tra l'altro. Cosa succede? Succede che la parte più becera della tifoseria genovana comincia a sentire il puzza di bruciato e ragiona più o meno così. Ma come? L'anno scorso la Lazio regala all'Inter una partita vergognosa per fare un dispetto alla Roma e decidere la lotta a scudetto e adesso noi facciamo il gioco della Sampdoria? Giornali, siti, blog, monta questo malumore rosso-blu per usare un eufemismo, i giocatori per difendersi, e difendersi sia ben chiaro, dall'accusa di aver fatto il proprio dovere sportivo, cosa fanno? Cominciano a dare appuntamento all'8 maggio perché c'è il derby con la Sampdoria e l'applicazione a quel punto della parità di trattamento. 1-0 per il Genoa, pareggio della Sampdoria inizio ripresa, il grido venduti che già echeggiava da giorni che piove dalla nord sui giocatori genovani, finché al sesto minuto di recupero Milanetto pesca in aria Boselli, l'argentino, che segna il gol della vittoria genovana. Alla curva che li aveva insultati fino a un centesimo di secondo prima e che adesso li sta osannando e si rovescia in delirio, Milanetto urla "Zitti bastardi". Corrisponde Omar? Ma sì, la storia del derby, io parlo per me chiaramente, sì. Ho reagito male perché in quel momento, con la tensione accumulata della partita, ho reagito distinto, è tutto qua. Vabbè, poi, però, ma scusami, tu hai reagito distinto. Anche Gianni Mura, in un magnifico articolo su Guerino di quest'estate, ha scritto che tu qua hai sbagliato. Secondo me hai sbagliato per difetto, abbi pazienza, perché mi pare che uno che si sente dare uno, e tu parli per te giustamente, ma insomma una squadra, dei giocatori, si sono dati dei venduti per settimane, poi in quel momento vengono osannati perché si è dimostrato che venduti non erano. Beh, insomma, zitti bastardi, ho sentito di peggio nella vita, Sì, sì, però ripeto, io posso dire quello che ho fatto io, che poi mi sono pentito di quel gesto perché ho chiesto scusa ripetutamente dopo, però sinceramente l'uomo è fatto di carne e sangue, quindi va bene così, in quel momento l'istinto mi ha fatto far così. Senti, l'istinto ti ha suggerito questo comportamento, queste scuse che, ti ripeto, su cui che ti fanno onore, ma secondo me si poteva anche discutere. Poi, cronologicamente, che succede, Omar? Ma cronologicamente, insomma, dopo le mie scuse non sono state accettate da parte di tutta la tifoseria e quindi si è proseguito poi con la nuova annata con delle contestazioni nei miei confronti per per questa cosa qua, e quindi... Cioè, la nuova annata vuol dire che la stagione era finita regolarmente, tranquillamente, eccetera. Sì, ma non c'erano... dopo quel derby c'è stata solo più una partita, quindi insomma... Sì, senza più... E quindi si pensava che il tempo avrebbe stemperato, no? Questa la speranza era quella. La speranza era quella, e invece cosa succede? Che ricomincia dopo l'estate... Presento alla presentazione, insomma, ci sono delle scritte contro di me all'ingresso di Pegli, sì. E poi insomma in ritiro sono proseguite queste striscioni, queste contestazioni. Che evidentemente, adesso io non voglio lanciare accuse di nessun genere, ci mancherebbe altro, però qualcosa di strano, a me per esempio risulta che una bella mattina, voi siete in ritiro in Trentino mi pare? In Austria, addirittura. Beh, insomma, una bella mattina esce su un giornale genovese la notizia che nel pomeriggio in Austria sarebbero arrivati gli ultra a contestare Milanetto. Beh, nel pomeriggio effettivamente tu quel giorno hai ricevuto visite, se non sbaglio. Sì, è apparso uno striscione. Campo d'allenamento. Beh, diciamo che c'era ogni tanto l'informazione fa il suo dovere, nel senso che è molto, ma molto ben informato, no? L'hai detto te questo? Sì, questo l'ho detto io, questo l'ho detto indubbiamente io. Senti, dicevamo prima di questo articolo di Mura. Mura fa tre ipotesi e dice, tornando a quel derby, cosa sarebbe successo se Boselli non avesse segnato il 2-1? Risposta, non lo so. Cosa sarebbe successo se al 51esimo il 2-1 l'avesse segnato la Sampdoria, magari per un errore di Milanetto, sotto rete di Milanetto, eccetera, eccetera. Terza domanda, perché i giornali nazionali hanno scritto poco o nulla? E la risposta che si dà Mura è perché Milanetto non è né Del Piero, né Buffon, né Totti, né Ibrahimovic, eccetera. A parte che è un giocatore di 34 anni che si è fatto qualche campionato prima in B e poi tanti in A e anche da leader. Ma tu che risposta ti dai a queste domande? Ma questo non lo so, io... Come ho detto prima, parlo per me, io quando sono in questa situazione ho preferito, non credo in maniera vigliacca, ma in maniera serena e rispettosa verso la società che mi ha dato tanto, verso quella maglia che mi ha dato tanto e verso i miei compagni e verso un allenatore nuovo che era appena arrivato, ho preferito evitare ancora discussioni e togliere il disturbo perché secondo me non era giusto iniziare un'annata con degli strascichi e con delle cose dell'annata precedente, quindi ho preferito lasciar sereni tutti e credo in maniera abbastanza altruista prendere altre strade. Che è indubbiamente una scelta che ti fa onore. Io tra tutte quelle ipotesi ne faccio anche un'altra e mi sarebbe piaciuto che tu l'avessi fatta, magari ammesso e non concesso, anzi non concesso che valga la pena di discutere con certa gentaglia, che è questo ragionamento. Cosa sarebbe successo se voi aveste dato retta ai vostri tifosi più beceri e aveste regalato, come vi chiedevano loro, no, la partita al Brescia o al Lecce? E la domanda la faccio perché, con quel riferimento iniziale alla Lazio-Inter dell'anno prima, voi non siete la Lazio che può pagare anche in 23 rate, eh? Voi siete il Genoa che se c'è da pagare paga subito, mi risulta, 2006 e altre storie, no? Cioè. Ma sinceramente, insomma, io sono cresciuto con la cultura dello sport pulito, quindi insomma sinceramente noi poi il presidente ci teneva a raggiungere un punteggio che poi abbiamo raggiunto, che erano i 51 punti, che era il quarto risultato della storia di sempre del Genoa. Non so, i numeri parlano ampiamente dalla parte mia, dalla parte della squadra, quindi insomma il resto, ripeto, sono chiacchiere, sono qualsiasi cosa, però noi in questi anni credo che abbiamo fatto molto bene, abbiamo vinto, io credo di essere nella storia quello che ha vinto più derby nella storia del Genoa, quindi sicuro. Sì, e che agli occhi di qualcuno, no, di questi che cercherei anche di non definire per non esagerare, tu debba passare invece come l'uomo che forse aveva avuto il sospetto di vendersi un derby, veramente. Ma probabilmente l'ho patita per quello, cioè perché veramente ero arrivato a un punto che credevo e pensavo che di finire la carriera con quella maglia e probabilmente il derby lo sentivo più di altri, quindi probabilmente la mia reazione è dovuta anche a, è dovuta a, questo. A, non, averla, a non aver giocato il derby come giocatore, ma come, certo. come uno del Genoa. La differenza tra quelli che se fanno un gol o se fanno una gran partita si vanno sotto la curva a battersi la mano col petto, e invece quelli che invece quando c'è da levarsi un sassolino se lo levano. Torniamo in compagnia di Omar Milanetto per concludere questo excursus su quello che a parer mio è stato certamente il caso dell'estate, perché è stato un caso calcistico, è stato un caso umano, è stato un caso sociale, è stato un caso di costume soprattutto e di costume sportivo. Omar, facciamo finta che non c'entri tu, che non c'entra il Genoa, che non c'entra il presidente Preziosi, che insomma, astraiamo. Secondo te quanto tempo serve perché un giorno ci siano una società, un presidente, che dicano agli ultra quando si scatenano, gli acquisti e recessioni li decidiamo noi? Ma non lo so, sinceramente, ti ripeto, io parlo sempre per quello che è successo a me, credo che il presidente Preziosi ha chiesto, cioè mi ha detto fai quello che ti senti, io ti appoggio in tutto quello che farai, credo che anche questo sia stato un gesto bello, importante, mi ha fatto sentire importante, però ripeto, come ho detto prima, io non volevo mettere tensione, pressione alla squadra, al presidente, alla società, all'allenatore nuovo, ai giocatori nuovi, quindi è una decisione mia, non c'entra, cioè la società mi ha appoggiato in qualsiasi scelta avrei potuto prendere. Senti, tu sei cioè appena raccontato appunto questa scelta e la maturità evidentemente che ha suggerito questa scelta, sei un professionista, anzi a 34 anni sei un veterano, eppure vediamo se mi sbaglio stavolta, io scommetto che quando una settimana fa tu hai impastato quel destro al volo sotto la Nord non è stato un gol come un altro, credo, corretto? No, assolutamente, ma io quando sono andato via ho detto sono fatalista, si vede che era giusto che succedesse questo, e poi ho visto il calendario della prima giornata di Serie B mi portava a casa, mi portava a Marassi, e poi chiaramente quando ho visto la palla entrare sotto la Nord, cioè quella era casa mia, certo. Quindi ripeto, è stata una cosa incredibile, iniziare una nuova avventura con questo passaggio del gol a Marassi mi dà serenità, mi dà forza per continuare a lavorare qua. Lo credo bene. Senti, il Padova, a parer mio, ha fatto un affare. Pensi di averlo fatto anche tu? Ma io ho deciso di pancia, come si vuol dire. Quando è stato il momento di andare via, il presidente Preziosi mi ha offerto di andare nell'altra sua squadra. Che è a Lugano, no? Che è a Lugano, sì. Esatto. Però probabilmente quella scelta era una scelta di comodo, ma che non mi faceva sentire giocatore, non mi dava pressione, non mi faceva stare troppo tranquillo. Sinceramente ho ancora voglia di giocare, di divertirmi, di imparare allenandomi, e quindi è arrivato il direttore sportivo del Padova, mi ha prospettato questo progetto importante qui, e l'ho accettato con entusiasmo, sono ripartito bene, adesso cerchiamo di portare a termine questo progetto. Omar, se studio per bene il calendario del Padova, quindi trovo un'occasione, una sera giusta, ci vediamo da Claudio e da Cristian, dai nostri amici a Bergeggi una volta? Ma molto volentieri. Molto bene. Io porto Mura, eh? Perfetto. Facciamo così. Un abbraccio. Grazie davvero. Grazie. Grande Omar, portaci in Europa. Il primo dei messaggi arrivati oggi ed è firmato da Michele, un padovano. Adesso l'Europa comincia, mi sembra un po' tanto per cominciare, credo che sia anche... Milanetto guidasse semplicemente per il momento il Padova in Serie A, già non sarebbe un brutto colpo. Padova, tra l'altro, che è una piazza a cui bisognerà dedicare un appuntamento, un altro appuntamento per la strada della Piani, perché in estate si è decisa una parte di demolizione della Piani, ma che potrebbe essere però un segnale di rinascita, quindi una cosa positiva. E tra i tanti messaggi che sono arrivati dedicati a Milanetto dai tempi di Modena, lo vado a ricercare uno in particolare. Daniele scrive da Sassuolo: un saluto al grande Omar che con Grieco, Ponzo e Fabbrini resero grande il Modena di De Biasi. Insomma, un'avventura in Serie A che lasciò il segno a suo tempo nei primi anni 2000. La sintesi mi pare che la colga per il momento, poi magari ne arriveranno altri. La colga Federico da Alessandria che scrive: evitare qualsiasi confronto con gli ultra non è vigliaccheria, ma è l'unica coraggiosa cosa da fare che tutti dovrebbero fare. Bravo Milanetto. Gianluca ha chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, salve Garanzini. Buongiorno. Niente, io chiamo come ex calciatore di una squadra dilettantistica diventata poi professionistica e poi tristemente fallita. In questa squadra io ho ancora tuttora diversi amici che sono amici di Omar e hanno giocato con lui. E quindi una testata di stima, per quanto è stato detto già da tutti gli altri amici e da quant'altro, perché è uno di quei pochi giocatori seri, suppongo ce ne siano anche altri, ma lui l'ha dimostrato facendo queste affermazioni, fa bene al calcio, un calcio che oggi non è più così bello, proprio perché mancano le persone che hanno il coraggio di dire quello che pensano. Sono d'accordo con lei Gianluca, e che poi nel momento difficile sanno tirare le somme, accettando persino, no, di porgere a parer mio assolutamente non dovute, lo ripeto, e quindi cercando in ogni modo di evitare la rottura, ma che invece quando trovano dall'altra parte interlocutori con cui non è dignitoso, secondo me, misurarsi, prendono la loro strada, se ne vanno altrove, facendo poi in realtà il danno anche involontariamente anche il danno del Genoa, perché stiamo parlando di una persona, fin qui abbiamo parlato di una persona, poi se parliamo anche del calciatore, io credo che nonostante i 34 anni, Milanetto in Serie A, il suo posto in Serie A, in una squadra di livello medio-alto come il Genoa, il suo posto lo tenesse come, e mi pare che lo dimostrasse in ogni occasione, l'abbia dimostrato comunque ancora brillantemente lo scorso anno. Angelo, chiamato dalla provincia di Genova invece, buongiorno. Pronto? Dica Angelo, buongiorno. Buongiorno. Sì, è stato un peccato esserci lasciati così con Omar, però la partita non è stata detta come è andata. Cioè, nel secondo tempo abbiamo tirato i remi in barca, non riuscivamo a spazzare via un pallone e noi tifosi siamo così, ci facciamo prendere da queste emozioni. Volevamo mandare il Doria in Serie B, loro non ci stavano dando una mano in quel momento, è un peccato esserci lasciati così col geometra, perché per noi era il geometra in campo. È stata sì una cattiveria, mi dispiace da morire per Omar, perché lui sa quanto è stato amato, però in quella partita hanno sbagliato tutto. Poi meno male che all'ultimo ha pescato quel jolly e tutto si è risolto. Poi ci ha portato la squadra giù negli spogliatoi, cosa che lui sa benissimo, perché l'ha portata lui la squadra negli spogliatoi, mentre invece tutte le altre volte sono venuti sotto la Nord a festeggiare. Direi che Angelo, mi scusi, ma se c'era una volta che non vi meritavate una visita era quella, però, perché lei ha raccontato splendidamente. Io sono convinto che a Milanetto questa telefonata sua farà particolarmente piacere, perché si sente l'affetto e il rimpianto per il giocatore e per come è andata. Però convenga con me che se ci sono due squadre in campo, per quanto possa essere derby, e una di queste squadre è comunque a fine stagione e non rischia più né di retrocedere né rischia, al contrario, cioè né può competere per qualcosa, e l'altra si sta giocando la casa e la vita, è possibile, no, che l'altra, e cioè il Doria in questo caso, avesse qualche motivazione in più? Sì, ma c'era Calazze, ad esempio, io ho la sua maglietta, dopo il derby di andata Calazze mi ha dato la sua maglietta, non riusciva a spazzare un pallone, tutte le palle le perdevamo, sembrava per noi tifosi, sembrava proprio che a loro il pareggio stesse bene. Poi Milanetto lo sa, è entrato Boselli che non lo sapeva. Però guardi, le dico anche un'altra cosa. Mi scusi, dato che questa invece è proprio una cosa brutta, da tifoso, fino adesso lei ha parlato come un libro stampato. No, questa è una roba, è una belinata classica. Ecco, bravo, perché mettiamo che ci fosse l'accordo e che Boselli non lo sapesse, io provo a seguirlo su questo terreno. Secondo lei al 96esimo Milanetto mette quella palla in area a uno che non sa niente, se per caso avesse fatto la torta? Guardi che Milanetto è un genio nel calcio, è stato sottovalutato da tutti. Sono d'accordo. E secondo lei proprio per questo gli metteva quella rischiava di mettergli quella palla profonda in area a uno che non sapeva niente di una presunta torta al 96esimo minuto? Ma lui era talmente bravo che pur non volendo dava sempre quelle palle. Ma vi rendete conto di a che livelli di abiezione arrivate con il tifo? Sto parlando a un genoano, ma sia ben chiaro che questo discorso vale per qualsiasi tifoso di ogni ordine, grado e latitudine e colori sociali, intendiamoci. Guardi, io ho 47 anni e vado nei parterre con i miei figli che hanno 20 anni, vado lì per controllare. Il Milanetto, tra l'altro, quel dito verso e quel zitti bastardi guardava me. Guardava me in quel momento. Può darsi che l'avesse messa, che l'avesse messa a fuoco, Angelo. E comunque io mi auguro che lei si è riuscita a trasmettere ai suoi ragazzi, lei 47enne, per trasmettere ai suoi ragazzi la sua passione per il calcio, in questo caso per il Genoa. Spero che i suoi due figli, come dire, siano leggermente più staccati da questa ottica tribale, no? Che sia pure con grande finezza, comunque in qualche passaggio del suo intervento è uscito. Ma perché i giocatori non scioperano per il caso Milanetto, si domanda Andrea da Brescia. Io in questo caso li appoggerei in pieno, perché Milanetto lo ha raccontato bene prima, se n'è andato in silenzio, senza far rumore, e non credo minimamente che vorrebbe iniziative di questo genere. Sentiamo, cambiamo vagamente discorso, anche se poi sono convinto che ci torneremo, perché c'è un'ipotesi di accordo ponte tra le controparti. Insomma, ormai si è capito che venerdì prossimo, con Milan-Lazio, venerdì sera appunto la Serie A comincerà, non regolarmente, ma insomma comincerà con due settimane di ritardo. L'accordo ormai è nell'aria e è stata anticipata la firma nel pomeriggio dal presidente del Napoli, da Aurelio De Laurentiis, sulla base di quell'accordo ponte su cui non si erano accordati invece la scorsa settimana. Ma anche in questo caso si attendono sviluppi. Un minuto e mezzo, due circa all'intervallo per i mercati. Beh, allora io direi che è difficile perdersi una voce che riguarda. C'è già un ascoltatore in linea, sì, però vediamo se c'è tempo, perché prima, per cambiare anche un pochino piazza, questa mi sembra davvero imperdibile, cioè questa conferenza stampa di stamane a Palermo, in cui Zamparini ha spiegato ho avuto paura di retrocedere, pensavo che saremmo retrocessi, per questo ho subito cambiato il tecnico è Stefano Pioli, che stamattina è stato licenziato ufficialmente con la squadra affidata all'allenatore alla primavera, eccetera. Siamo al primo settembre e andiamo a sentire che cosa il 2 luglio, presentando Pioli, Zamparini aveva dichiarato. Sì, ho fatto secondo le mie credenze, come prendo i giocatori giovani, ogni tanto bisogna cambiare, io veramente cambio un po' troppo spesso gli allenatori, questo penso resterà con me parecchio tempo, glielo auguro a lui e me lo auguro anch'io. Per dire, no? Andrea ha chiamato da Genova, rapidamente perché dobbiamo andare alla borsa. Sì, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Niente, io posso dire che sono solo che grato a Milanetto per tutto il campionato che ha fatto qua a Genova, perché è sempre stato un gran professionista, e ricordiamo che quando è andato via Thiago Motta abbiamo preso Carja per sostituirlo e poi alla fine ha giocato a Milanetto. Ha sbagliato nel gesto che ha fatto durante il derby e su questo non ci piove. Ha chiesto scusa, non capisco poi la gente cosa c'ha in testa, perché Milanetto poteva tranquillamente rimanere e fare un gran campionato di Serie A. Va bene, volevo dire questo e ringraziarvi. Grazie a lei Andrea. Io ripeto, non sono d'accordo. Se mi danno il venduto per due o tre partite, magari per qualche allenamento, se lo leggo sui muri, se lo sento sibilare in giro e poi all'ultimo minuto metto l'assist decisivo per la palla della vittoria nella partita presunta incriminata, beh, insomma, zitti bastardi, ho l'impressione che sfuggirebbe a me e a chiunque abbia quel minimo di sangue che scorre nelle vene, e quindi per me Milanetto, ripeto, non ha nemmeno sbagliato. Dopodiché, dato che il calcio vive anche di queste ipocrisie, invece Milanetto si è comportato, è arrivato addirittura a chiedere scusa. Ripeto, per me ha esagerato nelle scuse. Il giorno dopo la chiusura del calciomercato, con gli ultimi botti, mi pare molto reclamizzato quello di Zárate all'Inter, mi piacerebbe che qualcuno, magari tra gli ascoltatori collegati, mi spiegasse perché, rispondesse magari a questa domanda: su che basi un giocatore che rappresenta un problema serio per la Lazio dovrebbe diventare una soluzione per l'Inter? Ecco, questa è una domanda. Io trovo che nell'ultima giornata l'affare vero l'abbia fatto il Milan, che ha acquistato una signora mezzala su cui da tempo sostengo che avrebbe dovuto mordersi la mano alla Juventus, visto le mani della Juventus, visto che era suo. Nocerino era suo, Crescito era suo, e sono due giocatori che oggi farebbero molto comodo, a parer mio, anche alla nuova Juventus di Conte, che pure ha comprato e ha molto speso. Ci sono alcune curiosità legate a questo calciomercato, poi ci sarà spazio per i vostri interventi. Io ve le centellino, sono tutte curiosità griffate Franco Piantanida, e io comincerei dalle due società più felici, come società intendo, come tifoseria, poi è da discutere, e cioè Udinese e Palermo, perché entrambe sono riuscite ad incassare più di 50 milioni, l'Udinese anche qualcosa in più rispetto al Palermo. Beh, credo che perlomeno dal punto di vista finanziario non possano essere insoddisfatte. Questo è un dato certo, poi gli altri dati dipenderanno da come funzionerà. Ci sono anche squadre, e la Juventus in particolare, che sono invece un tantino deluse, non tanto per le operazioni che hanno concluso in entrata, ma per quelle che non sono riuscite a concludere in uscita. Anche in extremis, come ha tentato di fare ieri la Juventus con Amauri, che ha rifiutato proprio in extremis la cessione al Marsiglia. Sentiamo Marotta a questo proposito. Il problema Amauri ci deve far riflettere, proprio alla luce di quello che oggi è l'assemblea, perché nel caso di Amauri ha un contratto netto di 3.800.000 euro, gli erano stati garantite tra un'incentivazione all'esodo di 3.200.000 euro lordi da parte della Juventus, la rimanente 2.500.000 circa netti erano stati garantiti dal Marsiglia. Marsiglia gli dava un contratto di ulteriori 2 anni, quindi totale 3 anni, quindi davanti a una situazione del genere io credo che bisogna fare una riflessione, proprio perché sennò rischiano le società di rimanere ingabbiate. Sì, tra le riflessioni che le società potrebbero fare c'è quella che prima di mettersi 40 giocatori più o meno mal contati a libero paga, forse si potrebbe ricorrere a qualche giovane della primavera. Butto lì per dire che, dato che Amauri farà compagnia in questa stagione, almeno sulla carta, a Toni e a Iaquinta in retrovia in attacco, ci si può domandare per esempio se a gennaio scorso, come mi era scappato di dire da questi microfoni, fosse così indispensabile Toni e non si potesse per esempio rischiare un giovane alla primavera. Non so, c'è uno che si chiama Immobile, che mi sembra che stia segnando, sia abbastanza mobile sul campo, se sta segnando tutti quei gol col Pescara, per dire, no? Poi certo, un conto è giocare nel Pescara, un altro nella Juve, ma se sono soluzioni di ripiego, e poi magari gli Immobili si smistano, no? E invece gli Amauri si piantano dove sono, anche perché strapagati, e quindi chi li muove? Antonio Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Manca a fare la posta della parola di Amauri. Praticamente io ho seguito le riserve tutti i giorni e sono pure la trasmissione di lunedì, dove stava passando il principio che i calciatori avevano ragione, perché l'articolo 7 che li tutelava non si doveva toccare. Ora, scorto di quello che è successo con Amauri, io dico che per me hanno torto marcio i calciatori, perché nella fattispecie Amauri, come ha detto Marotta, io non l'avevo nemmeno sentito, l'ho sentito proprio adesso, come ha detto Marotta, ha avuto la possibilità di trovare un'altra squadra, si è rifiutato. Poi è stato a Torino per 3 anni, non ha mai dimostrato niente, si è fatto crescere i capelli, ha fatto della ricotta che tutti sappiamo, donne di qua, donne di là. Antonio, lei si vede che è particolarmente informato sul tempo libero di Amauri. Io sinceramente no, e quindi resterei a come Amauri si è comportato in campo, a quello che in campo ha fatto. A Parma non mi sembrava fosse andato così male. A Palermo prima nemmeno, nel Chievo ha fatto una discreta carriera. Forse può darsi che la Juventus sia arrivato in uno di questi momenti difficili che la Juve di questi anni attraversa. Forse le società potrebbero pensarci un po' di più prima di concludere di firmare contratti pluriennali, no? con giocatori. In quel caso probabilmente la Juventus è stata, come dire, indotta a investire molto su Amauri, perché garantiva per lui un certo Marcello Lippi, che aveva varato questa operazione in prospettiva anche azzurra, poi tutto fallito all'ultimo, e può darsi che insomma, certi errori, certe supervalutazioni si paghino, senza che per questo debba diventare colpa dei calciatori, perché i contratti firmati sono fatti apposta per essere rispettati. Se sono lunghi, il problema è delle due parti che le hanno firmate, non soltanto di una. Da Genova ha chiamato Diego, buongiorno. Buon pomeriggio e grazie per avermi richiamato. Io volevo ritornare brevemente sul caso Milanetto e alla sua attenta ricostruzione. Vorrei aggiungere un aspetto che lei non ha trattato, che è questo. Una settimana prima del derby ci furono pesanti pressioni anche da parte della sindaco Marta Vincenzi affinché tra le righe la partita prendesse, diciamo, una piega di comodo, cioè che le squadre... Lo ricordo Diego, mi lasci solo dire che insomma, pesanti pressioni mi sembra un po' tanto. Ci furono sortite infelici del sindaco di Genova. Fu la prima volta che un sindaco di dichiarata fede sandoriana convocò i capitani delle squadre, poi mi sembra che nessuno, che alla fine le società rinunciarono all'invito della sindaco, ad un incontro in comune. Ora, sì. Sinceramente a me sembra un forte autogol della politica, perché si processa sempre che la politica deve rimanere lontana dai campi da gioco, e poi una settimana da un derby particolarmente così sentito, il primo cittadino di una città e dichiaratamente della squadra che ha più da perdere rispetto all'altra si auspica un incontro. Comunque, al di là di questo, sull'onda secondo me di questo incontro, che poi non ci fu, iniziarono a circolare a Genova voci su una cena galeotta tra gli anziani di una squadra e gli anziani dell'altra. Quindi, fermo restando che tutto è dimostrabile e tutto è indimostrabile, alla fine della fiera secondo me Milanetto ha pagato colpe che magari non erano neanche sue, o forse si è trovato in mezzo a una situazione che avrebbe volentieri fatta meno, col risultato che purtroppo la società Genoa ha dimostrato una certa vigliaccheria e una debolezza nei confronti di coloro che si sentono i padroni non solo. Sottoscrivo con la S maiuscola, e però lei dice ha pagato colpe, o forse ha pagato colpe, io dico ha pagato voci, ha pagato pettegolezzi, ha pagato sciocchezze, ha pagato questo modo malato, distorto di intendere il calcio, in base al quale lei è partito dalla vigilia del derby dell'8 maggio, io ero partito da 20 giorni prima, in base al quale il Genoa avrebbe dovuto perdere col Brescia e con Lecce, a maggior ragione visto che Lecce era andato in vantaggio due volte, pur di questo secondo me è un modo malato di affrontare il calcio a Genova, come a Roma l'anno prima con Lazio Inter, come potrebbe essere a Torino, insomma, no, non solo dove ci sono le grandi rivalità evidentemente, ma indipendentemente dalle latitudini. Diego, grazie. Da Trieste ha chiamato Matteo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io sono un tifoso juventino che negli ultimi due anni ha dovuto sorbirsi spesso e volentieri gli sfottori, amici soprattutto interisti. Allora, Balzaretti, Nocerino, Criscito, lo stesso Rinaudo che gioca con... No, Ariaudo che gioca con il Cagliari. Mi fermerei ai primi tre. Era in dubbio Sorensen anche in quest'estate, che volevano cederlo, quando è evidente che spesso e volentieri abbiamo problemi in difesa. E intanto noi avanti con Grigera. No, Grigera è uno dei pochi che è stato ceduto. Sì. Non riesco a capire bene la politica di fondo di queste scelte della società. Cioè, nel senso, oltre al fatto che, se non sbaglio, la Juventus negli ultimi anni ha vinto alcune volte il torneo di Viareggio a livello primavera, è sempre stata una squadra abbastanza quotata. Mm-hmm. Cioè, non provare almeno a tenersi tre giocatori che dalla primavera passano a fare qualche partita e l'anno successivo provano a giocare, a fare panchina, come era il caso di Gian Domenico e Pasquato, che sono stati adesso dati in prestito a Lecce, e tanti altri giocatori. Volevo un suo parere su questo. Ma insomma, è esattamente il suo, è il suo, cioè, l'ho detto prima, proprio di Amauri e di Immobile, anzi di Toni e di Immobile, potrei dire di Pasquato, non lo so, io non sono così certo che Pasquato adesso, cioè sono contento per il Lecce, no, che fa un eccellente acquisto, poi è chiaro che Pasquato rimane in orbita Juventus. Non è non sono poi così certo che non fosse ancora pronto per la Juventus, anche perché di pronti per la Juventus, bah, siamo sicuri che ne siano davvero arrivati tanti? Beh, qualcuno sì, se parliamo di Vucini, se parliamo di Pirlo, se parliamo forse anche di Vidal, mi pare di poter dire, ma su altri magari si può discutere. Io, gente che cresce nel vivaio, secondo me ha sempre motivazioni più alte, ha sempre più insomma, più ha qualcosa dentro in più, io credo, oltre che sono probabilmente più facili da gestire, anche magari costano anche meno, io questo non lo so dire. Se vuole le dico il mio personale caso limite, visto che stiamo parlando di Juventus, che è questo, con tutto il rispetto e la stima per Giaccherini, che è quasi certamente che è un buon giocatore, insomma, mi pare lo abbia dimostrato, ma che senso abbia aver ceduto 2 anni fa un giocatore che ha le stesse caratteristiche di Giaccherini, con la differenza che i piedi li ha migliori, che è Giovinco? Io sinceramente non riesco a capirlo, a parità anche di statura, non vorrei scendere a questi dettagli, ma stiamo parlando di giocatori che adesso vanno di moda, no? Perché il Barcellona ha lanciato questa cosa, dicevamo ieri che anche il City ha un po' abbiurato a questa tesi che per anni ha impazzato della stazza fisica come primo parametro da prendere in considerazione. Boh, insomma, io sinceramente da Giaccherini e Giovinco penso Giovinco, a occhio, mi pare lo pensi anche Prandelli così, a spanne a sua volta. Però può darsi invece che abbiano ragione loro. Ripassiamo anche le prodezze assolute di questo calciomercato, tornando un pochino indietro, cioè era appena iniziato quando ci furono 2 gaffe probabilmente senza precedenti o comunque in ogni caso clamorose, come mi ricorda Franco Piantanide, e cioè una a Bologna. Il direttore generale Pedrelli sul modulo federale, invece di scrivere il doppio della cifra che il Bologna intendeva offrire per Viviano, si è sbagliato e ha scritto la metà. E senza accorgersi che la cifra era minore rispetto a quella pagata un anno prima per la metà del cartellino, che erano 3,5 milioni. Quindi in questa maniera il Bologna ha perso Viviano in una maniera davvero assurda. Subito ruota il presidente del Torino, Cairo, si è dimenticato di firmare l'offerta sulla busta per Junco e quindi lo ha perso senza combattere, no? Indipendentemente dal fatto che poi fosse convinto o meno dell'offerta, ma lo ha perso, e adesso Junco è finito allo Spezia in Lega Pro. Se vogliamo metterci una terza prodezza, beh, io credo che quella di Boriello da parte della Roma non guasti nemmeno questa, perché siamo al 31esimo del secondo tempo dell'andata, Slovan Bratislava Roma, Luis Enrique, che già qualcuno l'ha combinata a occhio e croce a quel momento della partita, anche perché è difficile sempre rinnovare, rilanciare, cambiare metodi, cambiare mentalità, eccetera, però le fa entrare Boriello per quel quarto d'ora giocato in quella partita che insomma, una squadra più decorosa avrebbe considerato rimediabilissima al ritorno. Boriello non ha più potuto essere ceduto a squadre che giocassero in Europa League e tra le tante ieri all'ultimo istante il PSG, cioè la squadra di Leonardo, la squadra parigina, ha avuto il centravanti titolare infortunato, avrebbe molto volentieri preso Boriello, visto che dovrà fare a meno di questo Arau per 2 mesi abbondanti, ma a patto che Boriello potesse giocare in Coppa, cosa che per quei 14 minuti non è invece più possibile. Poi, già che ci siamo con la Roma, parliamo anche del contratto di Bojan, perché credo che ne valga la pena. Sentiamo prima un paio di interventi. Uno è di Massimo da Ascoli Piceno. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Due brevi considerazioni sulla cessione di Zarate. Io sono tifoso laziale. Ricorderei che nei 3 anni passati alla Lazio, togliendo i primi 4 mesi in cui segnò la maggior parte dei gol di quella stagione, il rendimento di Zarate non mi è sembrato eccezionale. E poi soprattutto voi sarete sicuramente informati di questo, come Radio 24, nel bilancio della Lazio, oltre allo stipendio di Zarate lordo che è di circa 4 milioni di euro, ci sono 3 milioni di euro all'anno sotto forma di commissioni che vengono riconosciuti allo staff di Zarate, quindi questo era un giocatore che prendeva 5 milioni all'anno. Non penso proprio che li valesse, ecco. Adesso potrà rimostrare grazie Massimo, io sinceramente non pratico contratti e quindi questi dettagli non sono a conoscenza. Resto al campo, ha detto bene lei, Zarate era arrivato, è stato presentato come un messia, ha autorizzato per qualche tempo qualche sogno di quel genere, perché insomma, le qualità non sono in discussione, e poi un po' alla volta si è capito che insomma, o si cambiava, è uno di quei giocatori che talento ne hanno da vendere, ma che non riescono a rassegnarsi all'idea che a pallone si giochi con un pallone solo, per l'appunto, no? E quindi o si cambia regolamento, o se no per quelli come Zarate è dura, perché o cambi regolamento e giochi con almeno due palloni o cambi la testa. Mi sembra un'opzione, come dire, difficilina da entrambi i punti di vista. Roberto invece è in linea da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io invece l'argomento è lo stesso, è sempre Zarate, ma siccome io sono tifoso dell'Inter e non della Lazio, spero che questo ragazzo, che ha uno spirito di rivalsa pazzesco, dovrebbe avere verso il suo presidente Lotito, e visto lo schema del nostro mister, che applicherà sicuramente il 3-4-3 e giocherà con tre punte, non metterà da largo, è uno che salta l'uomo, è uno rapido, spero invece che faccia l'esatto contrario di quello che ha detto prima il tifoso della Lazio. È suo diritto sperarlo. Tutto lì. Ecco, anzi, dal punto di vista tifoideo è anche suo dovere, secondo me. Poi che succeda, vediamo, insomma. Per carità, mica è escluso. Zarate è un giocatore giovane, è un giocatore di talento, che ha dei numeri. Vediamo, insomma. Vediamo come andrà. Io qualche dubbietto continuo ad averlo. Se parliamo di operazioni dell'Inter, io credo che ce ne sia stata una di grande saggezza, perché perso un totem come Eto'o, aver puntato dritti su un altro totem con caratteristiche diverse, ma su un grande giocatore di grande personalità, di grande spessore, di grandi capacità tecniche come Forlan, è stata una grande scelta. Quella di Zarate è una scommessa in piena regola. La prima è una scelta, la seconda è una scommessa. Le scommesse si possono vincere o perdere. Contratto di Bojan, vi dicevo. Allora, qui secondo me ci vorrebbe qualcuno. Qualcuno che non farebbe fatica a essere più esperto di me, insomma, qualcuno che possa essere più autorevole in materia. Allora, Bojan è stato acquisito dalla Roma a titolo definitivo per 12 milioni di euro, da pagarsi entro il 1 luglio 2013. Il Barcellona ha un diritto di riacquisto fissato a 17 milioni per il 2012 e a 13 milioni per il 2013, entrambi questi possibili diritti di riacquisto da pagare in due rate semestrali nel 2014. Questa opzione di riacquisto diventerà obbligatoria per il Barça nella stagione 2013-14. E a tale carattere obbligatorio è prevista la concessione da parte del Barcellona alla Roma di un diritto di controriscatto a 28 milioni da pagare entro il 21 luglio 2014. Io non, sinceramente, la settimana prossima credo anche di aver individuato un esperto di diritto sportivo a cui chiederemo davvero lumi su questa possibilità, perché l'idea di questo disgraziato, che poi tra l'altro è anche minuto, no, Bojan, piccolino, che viene tirato per una manica da una parte, poi invece lo prendo per la spalla dall'altra, e ogni volta che lo muovono a seconda delle date di scadenza si muove qualche milione di qua o di là, mi risulta un tantinello difficile da mettere a fuoco. Giuseppe Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo uscire un po' dal coro, una domanda un po' strana secondo me, però vediamo. Io volevo parlare del Barcellona, come gioca. Sì. E niente, sai questo gioco fanti TikTok, a volte è un po' noioso per me, secondo me. Volevo chiederle, ma secondo lei in allenamento come fanno? Si picchiano? Nessuno prende mai la palla, no? Quella che mentre andavo in macchina mi è venuto un po' da ridere. Cioè, se due squadre giocano uguali tra di loro, tra le quali, in allenamento volevo vederli. È una cosa un po' che mi è venuta mentre andavo in macchina. Non so se è una domanda un po' stupida o non si capisce cosa voglio dire. No, ho capito, sinceramente ho capito poco. Pensavo anche, da Milano chiama, vero? Sì. Pensavo che il temporale stamattina avesse allontanato le grandi calure, però insomma non c'è niente di male. Loro sono abituati a, come prima cosa, ad andare a riprendere quando perdono la palla, che succede abbastanza di rado. Il loro primo istinto, ma non è un istinto, cioè il loro primo input, mettiamola così, è andare a riconquistarla appena possibile con un pressing abbastanza feroce. Feroce non vuol dire falloso. Ricordo brevemente ai detrattori che nella finale di Coppa Campioni, l'ultima, Barcellona-Manchester, il Barcellona ha commesso 7 falli in 95 minuti di gioco, quindi diciamo che non gli appartiene molto, no? la scorrettezza come genere. Ha notato Mazzarri, che può essere simpatico o meno, ma è uno che di calcio ne mastica, ha notato Mazzarri dopo la manita, insomma dopo lo 0-5 di Barcellona in amichevole di un paio di settimane fa, ha notato la cosa, cioè ha fatto notare la cosa che più l'ha colpito, che non è la qualità tecnica di questi giocatori, che pure è straordinaria, ma è la loro voglia, anche in amichevole, di giocare sempre a quella maniera, e cioè di cercare di arrivare fino in fondo con l'azione, possibilmente entrare in porta con la palla, perché spesso gli piace esagerare, e nei momenti in cui la palla la perdono fare di tutto per andare a recuperarla appena possibile. Tutto questo a lei risulta noioso, a me risulta celestiale, addirittura ogni volta che lo vede che non tutti i gusti sono alla menta, come dicono quelli di Torino. Damiano da Lecce, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Innanzitutto la ringrazio per avermi fatto richiamare. Mm-hmm. Io l'ascolto sempre volentieri. Ho 60 anni, sono un tifosissimo della Juventus e amo il calcio in maniera smisurata. Condivido pienamente quello che ha detto prima su Barcellona, è un calcio celestiale, magari giocassero tutti in questa maniera. Quello che volevo dirle è soprattutto riguardo la Juventus, al di là del fatto che è stata, a mio avviso, punita oltre qualsiasi colpa che si può essere adottata nel 2006, una cosa che volevo chiederle è questa: ma che senso ha nell'arco di 3 anni rifondare completamente una squadra? L'anno scorso sono arrivati 9 elementi, quest'anno altrettanto, quindi si ricomincia da capo. Cioè, in base a quale principio, no? di logica, secondo me, si rinnova completamente una squadra per ricominciare da capo? Quest'anno assisteremo sicuramente di nuovo ad una squadra che sarà comunque sperimentale, quindi non so quanto ne pagheremo lo scotto, ma i nostri dirigenti, a prescindere da Andrea Agnelli, che lo ritengo una persona solo tifosa tanto quanto me, se non di più, ma Marotta e compagni, su che basi, no? Sulla base, Damiano, di 2 fallimenti consecutivi e la speranza di evitare il terzo girando pagina da un punto di vista tattico. Poi che le perplessità ci siano e siano tante, non c'è dubbio. Poi è anche vero che una volta o l'altra la Juventus riuscirà poi a fugarle. C'è un intervento di Beretta che dice: dopo l'accordo, ma l'accordo non c'è ancora, però l'accordo non è ancora definito con l'AIC, dopo il possibile accordo via a un tavolo per le riforme, già sentita anche questa, mi è parso già di averla ascoltata in altre circostanze. Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio a tutti.